Il mio nome è Man, Batman, e di solito sbaglio le presentazioni. Mio papà mi diceva sempre: non citarmi nei tuoi monologhi. Io non lo ascoltai. Non ascoltavo nemmeno mia mamma, che per questo si disperava e sovente mi diceva: dovresti diventare come Tizio, Caio e Sempronio, loro sì che sono degli esempi. Una sera, quando era ancora un bimbetto, andammo al cinema a vedere il film di Zorro, la versione quella in 3D. All'uscita un gaglioffo senza scrupoli li uccise senza pietà e scrupoli, e da quel giorno diventai un giustiziere. Balzai all'onore delle cronache grazie alle mie indagini. Come non ricordare quella dell'omicidio dell'inventore dei sinonimi? Mi ricordo che lo trovammo lì, morto, defunto, andato, perito, trapassato, deceduto. Come primo sospetto pensai giustamente al suo eterno rivale, l'inventore dei contrari. Lo interrogai e mi sembrò calmo, agitato, tranquillo, teso, cheto e irrequieto. La sua versione dei fatti era coerente, incoerente. Alla fine ammise di essere colpevole, innocente. Così lo arrestai, lasciai libertà. Io ero felice per la soluzione di quel caso. Anche il mio capo era felice, il sindaco poi come era felice, tutta la città era felice. Ma cosa dico felice? Forse addirittura felice, ma anche di più felice, oserei dire felice, felice, felice. Felice, l'inventore dei sinonimi, quanto ci manca. Neanche il tempo di gioire per questo successo che arrivò un'altra batosta. Maramao era morta, era morto. Gli esperti dichiararono fosse un suicidio, ma non era possibile. Maramao perché è morto se il pane e il vino gli mancavano? C'era anche molta insalata nel suo orto e una casa aveva lui. Questo è un caso per te, fece il mio capo. Vai a indagare, prendi pure la mia brum. Ma capo, faccio io, la sua brum, ps, nella... Tieni, riparala con questo... E dopo aver riparato la brum, che aveva un ps, nella... Partì alla volta dell'abitazione di Maramao. Era una casa tanto carina, nonostante sprovvista di soffitto e cucina. Non riuscii ad entrare dentro perché non c'era il pavimento. Mi chiedevo dove Maramao potesse far la pipì perché non c'era il vasino lì. Ma era bella, bella davvero. L'indirizzo lo conoscete tutti. Mentre rimuginavo su cotanta bizzarria architettonica, vidi passare di sfuggita Pinco Panco. Certo che idiota, doveva per forza centrarci lui. Ha ucciso Maramao perché è geloso della sua bella casa. In passato, sempre per invidia, dette fuoco alla casetta in Canada, bruciò vasche, pesciolini e tanti fiori di là. Gli dissi: ehi, Pinco Panco, fermati, mi devi delle spiegazioni. Lui non fuggì, strano. Di solito i colpevoli fuggiscono infischiandosene della lingua italiana. Io non c'entro nulla con questa storia. Ho messo la testa a posto dopo la storiaccia del Canada. Ora mi guadagno da vivere onestamente costruendo comò per perverse figlie di medici che provano piacere facendo all'amore con tre civette tre. Ma ho saputo che Maramao si è messo contro qualcuno di potente. Si è battuto fortemente affinché l'arcivescovo di Costantinopoli non si disarcivescostantinopolizzasse. Ringraziai Pinco Panco e mi recai nel malfamato quartiere degli scioglilingua. Una zona davvero non ci si può andare. Appena arrivai dietro al palazzo, incontrai un cane pazzo. Gli diedi un pezzo di pane a quel povero pazzo cane. Pericolo scampato, pensai. Invece no, mi trovai ad affrontare tre tigri. Contro tre tigri, non potevo farcela. Questa è la fine, addio. Quando all'improvviso giunsero delle grida: all'attacco! Erano i 33 trentini che trotterellando si buttarono fieri contro le tre fiere. Scappa Batman, ci pensiamo noi! Non me lo feci ripetere due volte, bensì tre, così, per sfizio. Scappa Batman, ci pensiamo noi! Scappa Batman, ci pensiamo noi! E fuggì. Non seppi più niente di loro. Forse non ce la fecero ad arrivare a Trento. Chi era a volermi fare la pelle? Probabilmente il figlio di Apollo, per farne delle palle. I pesci si saranno stancati di venire a galla solo per vedere palle di pollo fatte da pelle figlio d'Apollo, e quindi adesso vuole usare la mia pelle per fare le palle da far vedere ai pesci. Nel cielo un balene, qualcuno lo batté. In quel frangente breve apparse Apollo, che con una voce che ricordava un giovane Indro Montanelli disse: non è stato mio figlio a pelle, è un ragazzo tanto complicato, ma non è un assassino. Non sono stati nemmeno Pinco Panco e l'arcivescovo di Costantinopoli. Hai sbagliato la pista, non devi indagare qui nel quartiere degli scioglilingue, nemmeno in quello delle vecchie canzoni folk. Devi andare nel mondo reale, lì ti sapranno rispondere. Così, risoluto a risolvere, andai nel mondo reale. Mi ritrovai in via dei Volci, radio Onda Rossa. Entro in studio, trovo un ragazzo che suona la chitarra. Di solito è Francesco, ma adesso Francesco sta facendo il viaggio di nozze, quindi lo interpreto io. Sai che ho ucciso Maramao? Gli chiedo. Chi? Maramao, il famoso imprenditore di pane, vino e orti. Ah, il contadino Giovanni Maramao è morto di vecchiaia. No, non è possibile, qualcuno lo avrà ucciso perché è immischiato in qualche intrigo internazionale. No, no, è proprio morto di vecchiaia. Qua spesso succede così. Nessun mistero da risolvere? No. Nemmeno una battuta, un gioco di parole, un calembour da un tirabuscio? No, niente, tutto risolto. Togliti pure la maschera, non serve nel mondo reale. Così In scena mi tolgo la maschera e ne ho un'altra sotto. Piuttosto scosso dalla notizia, ritorno nel mio mondo. La notte è buia, il tempo è brutto, quasi da lupi, e mi rifugio in un bar nel Bronx. Il jukebox suona un blues degli Stones. Ci sono dei loschi individui al bancone di questo bar, pieni di whisky e margarita. Tutto ad un tratto la porta fa un rumore strano, non sbam, nemmeno sboom, bensì slam. Entra il guercio, dice di avere una novità. Dritta sicura, si mormora che i cannoni hanno fatto bang. Un nuovo caso per me, ed io mi sento felice, più che felice, addirittura felice, oserei dire felice, felice, felice.